Al telefono con Enrico Nigiotti, reduce da Sanremo e che arriverà anche a Bologna con un tour nei teatri. Intanto grazie Enrico del tempo. Grazie a voi. Allora, dicevamo, ad aprile partirà il tuo tour nei teatri, che inizierà il 3 aprile a San Benedetto del Tronto e il 4, la seconda data, sarà al Duse di Bologna. Lo spettacolo si chiama Cenerentola e altre storie. Intanto, chi è Cenerentola e cosa ci racconti in questo spettacolo? Vabbè, Cenerentola è un po' la metafora per descrivere un po' la storia mia, insomma, un po' la mia gavetta, un po' la storia di tutti quelli che mi hanno fatto per fare quello che vogliono fare. E niente, nel tour porterò le mie canzoni, tutte quelle di Cenerentola e altre storie, più qualcuna vecchia, quindi insomma sarà un bel viaggio, chiamiamolo così. A proposito di gavetta, tu sei stato un po' lanciato dal mondo dei talent TV, Amici e X Factor, ma hai alle spalle anche una preparazione musicale blues, quindi volevo chiederti un po' chi ti ha ispirato e chi ti ha spinto a fare della musica. Sì, fa conto, a parte che c'ho qua Pino dell'Identicus, qua casa, che sta abita dietro casa. Ti saluta. Ciao cara. Fantastico, una doppia intervista praticamente. L'ho visto. Ti ha spinto a Pino a fare musica. No, l'ho visto ora perché lui sta dietro casa mia, ci si vede spesso. Facevo l'intervista, mi sono fatto, sto facendo l'intervista, ho fatto no, te lo faccio salutare. No, comunque sì, in realtà ci siamo tutti, cioè, io credo che ci si lanci, cioè siano tutte vetrine, sia YouTube, sia appunto i talent show, diciamo la televisione, per cui io ho partecipato a due talent che mi hanno insegnato un sacco di cose. Sono state delle esperienze bellissime, molto, molto formative e comunque non semplici, perché ripeto, veramente non è un'esperienza, per cui sono contento, nel senso che ho imparato tante cose, come ho imparato anche a Sanremo, come ho imparato anche a fare l'open act prima di Gianna, della Nannini, di Sepirete, eccetera, quindi voglio dire, è tutta esperienza. Ho avuto la fortuna di avere fatto tante cose, per cui di avere avuto un bel bagaglio in quel senso lì, cioè di averle provate tutte, per cui tutte mi hanno dato, come hanno lasciato qualcosa, ecco. Forse è questa magari tra virgolette un po' una differenza che mi vedo rispetto a chiunque altro, quindi non ti sto parlando solo di quelli che fanno il talent, ma anche di quegli altri, cioè io alla fine ho provato tutto, okay. Quindi so tutto. Tra l'altro hai aperto le date anche dei Simply Red. Sì, li feci nel 2015. Insomma, 2015 è stato una bella esperienza, non ricordi. Sì, non è una brutta cosa da inserire nel curriculum, direi. Parliamo il pezzo che hai portato a Sanremo, si chiama Nonno Hollywood, che è arrivato solo decimo nella classifica del festival, però poi si sa che il successo arriva più che altro dopo, ed è uno dei più passati nelle radio, insieme a quello che ha vinto di Mahmood e altri, comunque è uno dei più passati, ecco, come ti fa sentire questa cosa? Ma guarda, alla fine io, proprio per al di là poi delle radio, di tutto, il fatto che sono convinto io è che comunque Sanremo mi ha regalato un po' una nuova luce, o in verità mi ha fatto forse scoprire un po' di più al pubblico. Perché comunque non credo prima non c'era questa concezione di me come una persona, come un ragazzo che scrive canzoni, mentre invece forse con Sanremo, con questa canzone soprattutto, si è capito un po' che sono uno che scrive canzoni, cioè sono uno che lo fa così, capito? È uscita un po' scoperta la tua vena cantautorale. Probabilmente sì, che cioè, in realtà c'era di già, però sai, a volte bisogna incuriosire un po' più il pubblico e farti conoscere un po' di più, senza dubbio, perché sai, è un mondo difficile. Oggi ogni secondo c'è una nuova moda, c'è un nuovo idolo, c'è sempre un nuovo rispetto a ieri. Per cui l'importante è cercare sempre di esserci e di, e di battere un po' i pugni sul tavolo per farti sentire, ecco. Ok, guarda, ti faccio l'ultima domanda, perché ho letto che nello spettacolo che porterai c'è anche un pezzo dedicato ad Alda Merini. Come mai questa scelta? C'è proprio nel disco un pezzo che si chiama La ragazza che raccoglieva il vento. Ed è come mai? Perché alla fine Alda Merini, secondo me, cioè non secondo me, Alda Merini è una delle opere d'arte più belle che ha avuto l'Italia, e sicuramente, secondo me, ma nemmeno una poetessa e basta, era proprio un intellettuale, secondo me andrebbe forse studiato, anche le sue interviste andrebbero sentite e studiate, secondo me, perché lì dava ancora il meglio per me. Comunque è sicuramente la scrittrice, una delle scrittrici uno degli scrittori più importanti del dopoguerra, sicuramente uno dei pochi poeti che abbiamo avuto in Italia, che andrebbe studiato veramente a scuola, insomma. Fantastico. Allora, io ti ringrazio tantissimo. Ricordiamo un attimo le date. Intanto il 3 aprile San Benedetto del Tronto, il 4 aprile qua a Bologna al Teatro Duse, poi ci sarà Firenze, Torino, Lecce, Napoli, Mestre e Genova, per il momento. Sì, per il momento, sì. Diciamo che aprile è un po' racchiuso così, poi tanto ci vedremo in tutta Italia durante quest'anno, che sarà fortunatamente pieno di lavoro, sono. Me lo auguro perlomeno, però sembrerebbe così. Ok. Quindi cosa possiamo aspettarci dal futuro? C'hai già in mente qualche nuovo album, qualche nuova collaborazione, qualche progetto? Ora devi tirare un po' questo qua. Ma io mi auguro di rimanere così, nel senso, in questa situazione di benessere, di felicità, perché comunque sto facendo quello che voglio fare come lo voglio fare, per cui è raro. Sono contento. Perfetto, allora noi ti auguriamo anche noi tanta felicità, grazie mille e ci vediamo a Bologna presto. Ok, il 4 aprile, grazie mille, ciao.